Uno. La notte, stando a casa, appiccola sanguinante testa, la languente testa del nero, appicco come mia testa che perpendicolasse giù, negra testa di cranio leso scarpata, sullo scalino ove bruna chiazza di rosso e garze, dottori bend, capannello pallido, gelo nelle impallidite clavicole ali, omeri e madre con grezza mantella e sonno, che arriva nel giaciglio e urlo sirena me raggiunge, solido, sordo, e come a picco, calata giù, mia testa, per mano d'un dio tempo qualunque e restando appesa al collo, e indenne al cuoio capelluto e più sotto, negli zampilli per cui lo sanguine se n'usciva fora, maestoso e grigiastro. O se io potessi ribattere quei tamburi che pareva ancora suonassero e che caddero, essi medesimi a terra tra gambe lente, coperte di jeans come suole e al suolo nella pigra postura del sonno. E come lo vidi io, essi lo videro, essere lui una me a picco, precipitata da vertice a vertice di teste, senza rialzarsi se non fosse quando in notte ebbero approntata una piccola bara. Per lui, per me, precipitati dritti al suolo, incapaci di riaversi, disposta a non riavere più né suolo né sanguine.